Salva Danaio con Valentina Furlanetto. Martedì 25 novembre, benvenuti a Salva Danaio. Promozione, vendita straordinaria, liquidazione. La parola saldi non si può pronunciare perché in Italia il periodo vero e proprio dei saldi è regolato dalla legge e deve seguire precise date concordate, ma se ci si guarda attorno nelle città italiane iniziano a fioccare cartelli di annunci, di sconti, promozioni varie. Si avvicina il Natale, questo dovrebbe essere il periodo di maggiore consumo, di maggiori acquisti, ma i dati parlano chiaro, l'avete sentito anche nel nostro GR, la fiducia dei consumatori a novembre registrata dall'ISAE e diffusa stamattina in ulteriore calo. Confcommercio prevede per il 2009 un calo dei consumi dello 0,5% e i negozianti quindi corrono ai ripari. Sono annunciate anche delle misure da parte del governo, l'avrete sentito durante i notiziari della mattinata, per andare incontro alle famiglie e proprio per rilanciare i consumi. Si parla di social card, di bonus una tantum, ma basterà tutto questo a rilanciare lo shop? Il tema di oggi quindi sono i saldi anticipati. Qual è la vostra esperienza di consumatori o magari di esercenti? Potete chiamarci all'800 24 00 24 oppure comunicarci la vostra esperienza o fare delle domande ai nostri ospiti al 349 238 6666 via SMS. Questa mattina le borse, prima di parlare appunto di saldi anticipati, come sempre diamo uno sguardo ai listini. Le borse, dicevamo, negative in apertura dopo una giornata euforica. Ieri prevalevano i realizzi in mattinata, ora per alcuni listini come Londra e Parigi è tornato il segno più, Londra più 0,59%, Parigi più 0,49%, mentre Francoforte è in ribasso dello 0,41%, anche Milano, MIB del meno 0,15%, MIB 30 meno 0,23%, a Piazza Affari deboli un po' tutti i bancari, nonostante il sì della Camera al decreto legge sulla crisi del sistema creditizio. Il testo però ora passa al Senato. È negativa la peggiore del listino in questo istante, A2A, e poi è nel meno 1,88 per A2A, meno 1,64 per Enel. Anche Eni negativa, meno 1,37%, così anche Autogrill, meno 1,34%. Dicevamo in difficoltà i bancari, Intesa meno 1,05%, UbiBanca meno 1,8%, Unicredito meno 1,48%, questi sono i ribassi più ampi, mentre positiva Tenaris più 5,2%, e anche SEAT pagine gialle in attesa del consiglio di amministrazione straordinario del 27 di novembre, nel quale si dovrebbero valutare le possibili operazioni aziendali da porre in atto per il rilancio del gruppo. Il titolo guadagna il 4,89%. Abbiamo detto dell'ISAE, diciamo anche che l'Ocse questa mattina ha previsto che la recessione in Italia continui fino al 2009 inoltrato, con un calo del PIL dello 0,4% nel 2008, destinato ad accentuarsi nel 2009 a meno 1%, e poi una piccola ripresa più 0,8% nel 2010. Una buona notizia, l'Euribor continua a scendere. L'Euribor tasso a tre mesi, il tasso interbancario, che quindi interessa tutti coloro che hanno stipulato, stanno per stipulare un mutuo, è ai minimi dal 3 aprile 2007 a 3,94% contro il 3,97% di ieri. Sul mercato dei cambi, prima di chiudere questa pagina finanziaria, euro a 1,28,39 sul dollaro. Quindi parliamo di saldi anticipati. Questa mattina Premier Silvio Berlusconi ha cercato di rilanciare un certo ottimismo anche da questo punto di vista. Ha detto: il segreto contro la crisi sta tutto nel creare un'atmosfera, nel mantenere gli stili di vita di prima, gli stessi livelli di consumo. Altrimenti le imprese entrano in difficoltà e si avvia una crisi. Ieri il Premier Berlusconi ha chiesto anche alle associazioni di categoria cosa ne pensassero della proposta di liberalizzare le date dei saldi per rilanciare i consumi. Però ci sono delle difficoltà evidenti dai numeri, dai dati che abbiamo a nostra disposizione, alcuni dei quali sono elencati in questa scheda. La crisi economica che ha colpito l'Europa assume in Italia connotazioni peculiari. La contrazione dei consumi, infatti, era già cominciata prima degli sconvolgimenti degli ultimi mesi sui mercati internazionali e della crisi finanziaria che ha investito il settore del credito. Così il prossimo anno, mentre in Francia e in Germania i consumi cresceranno, seppur di poco, qui da noi le stime prevedono un calo dello 0,5% nel 2009 e dello 0,6% nel 2010. Infatti, se negli anni 70 una famiglia aveva una quota del 24,7% del proprio reddito in affitti e spese obbligatorie, nel triennio 2007-2009 questa quota raggiunge il 40%. E la parte dei consumi sopravvissuta viene assorbita sempre di più dalla casa e dai servizi immateriali, mentre per i beni la parte di reddito disponibile scende dal 67,7% del 1970 al 50% del 2009. La crisi non fa dunque che aggravare la situazione e l'effetto negativo si riversa su tutti i settori in modo trasversale. I crolli più evidenti riguardano al momento alimentari e abbigliamento e proprio quest'ultimo raggiungerà un picco negativo di un meno 0,8%. Così i negozianti, grandi e piccoli, corrono ai ripari. Sebbene manchi poco più di un mese ai saldi di fine stagione, infatti, sono già apparsi i primi cartelli di sconti e promozioni. Nel tentativo di salvare un Natale, quello del 2008, che si prepara ad essere il peggiore per il commercio da molti anni a questa parte. E quindi saldi anticipati. Buongiorno ai nostri ospiti, Antonio Longo, presidente del Movimento Difesa del Cittadino. Buongiorno. Roberto Polidori, vicepresidente nazionale di Federmoda Italia Confcommercio, buongiorno a lei. Buongiorno, buongiorno. Ricordo il numero per chiamarci, 800 24 00 24, oppure per mandarci un sms al 349 238 6666. Allora, iniziamo subito con qualche dato. Polidori di Confcommercio, leggo che nel periodo settembre-ottobre 2008 rispetto allo stesso periodo 2007 il giro d'affari è diminuito dell'8%. È così? Sì, sono dati medi, ci sono delle punte maggiori o minori, comunque anche nell'ambito degli articoli ci sono, non so, la calzatura per esempio ha segnato una flessione rispetto all'abbigliamento in genere, l'abbigliamento sportivo risente meno, l'abbigliamento classico risente di più, comunque siamo in una fase che oserei dire, senza timore di sbagliare, che è di recessione netta, poi le cause vanno ricercate in molti motivi, ma di fatto siamo in recessione. Le piace la proposta di Berlusconi, la liberalizzazione delle date dei saldi? Liberalizzare i saldi, noi ci siamo interrogati anche settimana scorsa in una riunione di vertice di Federmoda Italia e abbiamo deciso che se si abolisce la legge sui saldi si deve fare solamente con legge nazionale, cioè nel Parlamento italiano, considerato che con la riforma del titolo quinto si detta mandato alle regioni di legiferare in materia di commercio, quindi assistiamo al fatto che ogni regione ha legiferato in modo suo, quindi per un principio gerarchico normativo dovrebbe essere il Parlamento italiano che, ispirandosi, c'era un articolo della Costituzione che parla della concorrenza generale, leale eccetera, e quindi possa semplificare, ma ci vuole una legge del Parlamento, non è che la possono decidere così i commercianti, ecco perché qualcuno sui giornali ha ipotizzato che noi non volessimo questa cosa, noi diciamo che i saldi che sono vendite di fine stagione hanno la loro ragione di essere, esistevano già prima della Bersani da sempre, perché è un modo di creare una coincidenza di interessi tra il commerciante che non si vuole portare all'anno successivo della merce che ha fatto il suo ciclo di moda e un consumatore che la vuole comprare a un prezzo notevolmente ridotto, quindi il saldo comunque, se si liberalizza la normativa sui saldi, ognuno se lo farà come quando crede e può anche non farlo, insomma dipende dalle politiche aziendali. I saldi ufficiali, il calendario dei saldi invernali 2009 parte a seconda da regione a regione, perché appunto il calendario è regionale, dal 3 di gennaio. Antonio Longo, presidente del Movimento Difesa del Cittadino, la situazione è quella che noi, anche secondo le vostre richieste, le vostre segnalazioni da parte dei consumatori, è quella che noi abbiamo elencato, che ci sono delle offerte, delle vendite straordinarie, lo registrate? Ma intanto vorrei dire che è confermata soprattutto la depressione dei consumi, diciamo la diminuzione dei consumi che ormai tutte le fonti, diciamo, più autorevoli hanno certificato, ma che gli stessi commercianti affermano esserci ormai da almeno un anno e mezzo. A fronte di questo, allora, c'è un proliferare di iniziative singole, sporadiche, territoriali, che sarebbe meglio, sono d'accordo con chi mi ha preceduto, che ci vorrebbe una normativa di liberalizzazione, però dobbiamo essere chiari, e non mi pare che la risposta sia stata altrettanto chiara alla sua domanda. I commercianti sono a favore oppure no della liberalizzazione dei saldi? Noi siamo assolutamente a favore come associazioni di consumatori e lo chiedemmo all'epoca anche al ministro Bersani, che poi ovviamente nel necessario gioco di compromesso aumentò la liberalizzazione, ma con determinati sempre limiti. Non si può adesso rimandare al nazionale o alle legislazioni regionali la soluzione di un problema sul quale, ripeto, i commercianti devono dire chiaramente se sono a favore o contro. Polidori, mi sembra che in effetti ci sia un dibattito fra i commercianti, non tutti, non è una categoria omogenea, per fortuna anche, ciascuno ha le sue opinioni e c'è un dibattito. I saldi anticipati non tutti sono d'accordo che facciano bene al commercio, magari anche ai piccoli commercianti, è così? Ma guardi, bisogna intenderci, innanzitutto la legge non parla di saldi ma parla di vendite di fine stagione e lo fa per quegli articoli che hanno una stagionalità. No, infatti, ma nell'ipotesi espressa anche dal premier Berlusconi che vengano anticipati, non tutti, in questo caso proprio i saldi anticipati, liberalizzati. Non tutti sono d'accordo. Immagina il saldo del cappotto fatto in agosto, è un non senso. I saldi invernali, non è un caso che i saldi siano stati dal legislatore divisi tra saldi invernali e saldi estivi, perché significa che quella merce che è rimasta, che il commerciante ha fatto del tutto per vendere, ma che gli è rimasta in magazzino e ne rimane sempre di più, alla fine, quando è a gennaio, magari a febbraio, dice qualcuno, la vende ad un prezzo ribassato al 50-60%. Ma il saldo dell'invernale fatto a ottobre o a novembre è un non senso. Comunque noi, preso atto che le autorità non sono in grado di sanzionare quei furbetti che iniziano prima con artifici vari, noi avremmo a maggioranza, ci siamo interrogati a livello di vertice e avremmo votato la disponibilità ad esaminare, ma ripeto, su scala nazionale, non è che il Piemonte li elimina, la Lombardia non li elimina, la Toscana sì, il Lazio no e così via, deve essere uniforme su tutto il territorio nazionale, quindi ci vuole una legge nazionale del Parlamento italiano e non le regioni, e quindi questo deve essere chiaro, perché se non abbiamo chiare questi principi normativi e un minimo di cultura giuridica rischiamo di parlare, come spesso si parla nei bar, di cose che non hanno una loro logica. No, è chiaro, però ovviamente chiederanno la vostra opinione. Al momento, come lei ha ricordato, i saldi non devono essere fatti nei periodi al di fuori di quelli indicati, altrimenti si rischia anche una multa da 500-3.000 euro. Certo, infatti, con la normativa attuale. Nel momento in cui dovessimo liberalizzarli, cioè si elimina la normativa sui saldi e ognuno a quel punto è libero di farli o di non farli, di farli sotto Natale o di farli a fine febbraio, dipenderà da quello che è la politica aziendale di negozio, viva Dio, ogni imprenditore potrà fare a quel punto come crederà più opportuno. Ma io ritengo che un negozio che segue un principio logico, anche in un momento di liberalizzazione, poi i suoi saldi di fine stagione li farà, perché ripeto, gli avanzano dei capi pesanti, gli avanzano dei pullover di cashmere, non se li porta a giugno, luglio o all'anno successivo. Quindi, però, se serve, visto che i controlli e le sanzioni di coloro che trasgrediscono, nonostante le nostre segnalazioni che puntualmente facciamo, ci dicono che i vigili urbani sono insufficienti, che gli ispettori hanno nari, hanno altro da fare, eccetera, e allora in questa confusione generale noi non siamo assolutamente contrari ad una liberalizzazione. Se è questo che voleva sapere il rappresentante dei consumatori, sì, che mi ha preceduto, a maggioranza noi a Genova 15 giorni fa abbiamo votato appunto che saremmo anche favorevoli ad una liberalizzazione. Quindi Credo che lei abbia risposto. All'estero, tra l'altro, per chiudere anche questo panorama, i ribassi si possono praticare in alcuni paesi senza un calendario fisso, come accade ad esempio in Gran Bretagna, si parla tanto di modello inglese in questo senso, saldi spesso anticipati a Londra, tra l'altro quest'anno è complice anche la debolezza della sterlina che consente acquisti scontati. Anche negli Stati Uniti non c'è una vera e propria regola, mentre in Francia ad esempio si parte a gennaio, un po' come accade in Italia. Diamo spazio agli ascoltatori. Alfredo dalla provincia di Savona, buongiorno. Oh, buongiorno, salve. Io ho curiosissimo, è interessantissimo l'argomentazione, proprio perché facevo parte della categoria dei commercianti fino a qualche anno fa, un lavoro che tra l'altro ci dà la soddisfazione, sono figlio di commercianti e era un bellissimo lavoro fino appunto a qualche anno fa. Levando quello che succede adesso appunto sul problema della crisi economica e quell'altro, perché la disponibilità degli utenti è sempre più limitata, basti pensare, sono convinto dell'ottimismo di Berlusconi che dice appunto di incoraggiare, di essere ottimisti, di incentivare la popolazione agli acquisti, dal momento che poi se guardiamo la realtà comunque vabbè. I commercianti stanno facendo le vendite promozionali e io non faccio più questo lavoro, ma lo capisco benissimo, per il grande problema che i consumi si sono rallentati. E per farla capo al salto, perché c'è la legge nazionale che va rispettata, questo e quell'altro, giustamente si fa ricorso alle vendite promozionali per riuscire a far fronte ai pagamenti che le aziende, poi giustamente sono sempre lì a chiedere di assolvere questi pagamenti. Alfredo, lei non fa più il commerciante? No, io adesso faccio autista, sono contento, faccio dipendente, un'azienda che è sana. Ha dovuto chiudere? No, io grazie a Dio sono anche riuscito a vendere. Gente appassionata, un bel negozio, aziende solidissime, che però il concetto poi chiudo perché sono di lungo, ci sarebbe da parlare due ore, tre, quattro. Le aziende, le grandi, adesso non voglio fare i nomi, di calzature fortissime, ci mandavano praticamente le percentuali di sconto che potevamo fare nel periodo dei saldi di fine stagione. E tanto sapevano benissimo che poi per poterli pagare eravamo obbligati a fare queste benedette vendite promozionali. Io proporrei a tutti i commercianti di proporre alle aziende di partecipare agli sconti, perché il magazzino che avete nei negozi è il vostro capitale. I clienti, la gente normale, chi va a comprare non sa queste cose, ma noi ci troviamo a dover pagare in anticipo il magazzino che poi rimane lì. Se non si vende diventa una pietra al collo pesantissima. Quindi voi dite siete l'ultimo anello della filiera, dipende brava, anche dai fornitori. Grazie Alfredo. Grazie, mi scusi ma dobbiamo dare anche voce agli altri ascoltatori. Volevo girare questo SMS che ci è arrivato ai nostri due ospiti prima di dare appunto il microfono agli ascoltatori, perché Massimo ci scrive: lamentarsi oggi del calo dei consumi è quantomeno da ipocriti, visto che i primi ad aver giocato con il cambio lira-euro sono stati i commercianti. Ovviamente noi non l'abbiamo detto, però ci sono stati in effetti dei rincari molto forti negli anni precedenti che hanno indebolito il potere d'acquisto dei consumatori, non soltanto per colpa dei commercianti, ovviamente. Polidori. Ma guardi, questo è un falso. I commercianti applicano un ricarico giusto su quelli che sono i listini che provengono dall'industria. Noi siamo i portatori finali di una filiera che nasce dalla materia prima, che aumenta come è noto, e tutte le trasformazioni, compresa l'energia elettrica, sono tutti aumentati. Il costo di un maglione, per esempio di un pullover o di una scarpa, è fatto di 30 voci di costo. Allora, se queste 30 voci di costo aumentano, è chiaro che la scarpa o il maglione finale porterà degli aumenti che sono diciamo per traslazione arrivano sul prodotto finito. Anche lei dice che siete l'ultimo anello della filiera, quindi questa storia del consumo, di alcune associazioni di consumatori che dicono che i commercianti hanno lucrato, cioè questa è una cosa contestabilissima. Prova ne sia che nel 2008 hanno chiuso 15.000 imprese. Lei va a vedere, io sono consigliere della Camera di Commercio di Roma e si assiste alla chiusura. Ora, se un'azienda arriva al punto di chiudere i battenti, evidentemente mi pare che è il segno più tangibile che le cose non vanno. Polidori, la ringrazio. Bentornati a Salvadanaio, oggi parliamo di saldi anticipati, di vendite da parte dei negozianti che, nonostante l'arrivo tra poco del Natale, quindi in teoria del periodo in cui si fanno più shopping, non ce la fanno, oppure sono in difficoltà, oppure temono di esserlo e quindi danno il via a una serie di vendite promozionali, di offerte, per cercare di incentivare i consumi, di avere un po' più di cassa. Abbiamo con noi degli ospiti, vorrei dare la parola ad Antonio Longo, presidente del Movimento Difesa del Cittadino, riguardo a questi prezzi. Devo anche dire che ci stanno arrivando molti messaggi su questo, riguardo al cambio euro lira e alla difficoltà di fare fronte all'aumento dei prezzi, quindi è una cosa che non testimoniano solo le associazioni dei consumatori ma anche gli ascoltatori stessi. Longo. Ma guardi, questa polemica, diciamo, sul cambio lira-euro ormai è diventata quasi stucchevole, nel senso che al di là delle polemiche che possiamo fare tra associazioni e imprese e l'esperienza quotidiana dei consumatori che tra il 2002 e il 2003 hanno scontato aumenti dal 50 al 100%, i maglioni che costavano 100.000 lire sono passati a costare 80, 90, 100 euro, così le scarpe, così tanti altri generi di consumo, ma insomma queste sono ormai certificazioni pure della Banca d'Italia e dell'Istat. Sicuramente, volevo aggiungere che sicuramente c'è anche il rialzo degli affitti, del rincaro dell'energia, certo, che i commercianti subiscono. L'unica cosa che non sono aumentati proporzionalmente sono i redditi dei lavoratori e dei pensionati. Ma a parte questo, c'è una questione fondamentale che noi poniamo. Perché i venditori di auto, piuttosto che quelli di frutta e verdura, piuttosto che addirittura con le Bersani anche i venditori di farmaci da banco, farmacisti, e non possono fare i loro sconti tutto l'anno e come vogliono, e invece per quello che riguarda l'abbigliamento, il calzaturiero, questo non è possibile? Ecco, questo è l'interrogativo sul quale noi in qualche modo chiamiamo a rispondere le associazioni dei commercianti, i quali peraltro poi questa decisione a maggioranza, come diceva il nostro interlocutore, non mi pare che l'abbiano pubblicizzata granché. Diamo anche spazio agli ascoltatori che sono in attesa, li ringrazio per la pazienza. Allora, Riccardo da Bologna. Buongiorno, volevo dire una cosa. Secondo me siamo in saldo costantemente tutto l'anno, perché tra sottocosto, vendite a zero, 3x2, chiunque sta facendo dei sottocosto o dei saldi, comunque tutto l'anno. E comunque per quello che riguarda l'abbigliamento, io credo che al di là che i commercianti siano d'accordo o non siano d'accordo, sono loro che devono decidere se poterlo farlo e soprattutto quando farlo. Quindi mi sembra che l'associazione dei consumatori al di là di tutto stia spingendo un po' troppo su questo tema, perché se il negozio è mio, se non le dispiace, decido io se fare o se non fare il saldo. Aveva una domanda anche Riccardo? No, era solo un'affermazione. Cioè, a me mi sembra che siamo in saldo tutto l'anno. Poi per quello, se dovesse mai esistere questo problema per chi vende abbigliamento, lo decido io se farlo o se non farlo. Lei che saldo. Lavoro fa, se posso chiederglielo? Io faccio l'artigiano. Ho capito. Grazie Riccardo. Stella da Roma, buongiorno. Buongiorno. E io volevo intervenire su questo. Questi annunci che fanno che ci saranno i saldi anticipati sono stati un'altra batosta, perché io stavo lavorando non tantissimo, però stavo lavorando benissimo. Vendevo. Lei è una commerciante. Esatto, di abbigliamento. C'è stato questo annuncio che i saldi saranno anticipati. E allora chiaramente la gente non viene più, perché aspetta, dice no, fra poco ci saranno i saldi, quindi questo ci ha rovinato ulteriormente. Ma Stella, i saldi non saranno anticipati, lei però parla delle promozioni. C'è stato l'annuncio dalla parte dell'associazione consumatori, che ci considera per cittadini di serie B e commercianti, perché anche noi siamo consumatori, perché se il denaro non circola noi a nostra volta non consumiamo, quindi è tutta una catena, no? Hanno fatto l'annuncio che i saldi saranno anticipati al 15 dicembre. Appena c'è stato questo annuncio, la gente ha smesso di comprare. Io non stavo lavorando male, perché non ho prezzi alti, quindi lavoricchio benino, insomma. E niente, quindi è stata un'altra batosta di cui ringraziamo l'associazione consumatori. Lungo, la faccio parlare con Stella direttamente. Ma intanto vorrei anche rispondere all'ascoltatore di prima. Noi non vogliamo imporre a nessuno di fare i saldi, ognuno ma chiediamo proprio la libertà totale dei negozianti di fare o non fare gli sconti, ma non in periodi determinati dell'anno, ma in tutto l'anno. Cioè deve essere il negoziante che decide la sua politica commerciale, punto e basta. Alla signora che ha appena chiamato, probabilmente i consumatori adesso hanno deciso di attendere 10-20 giorni, ma se lei fa una buona politica dei prezzi e di qualità, i consumatori andranno a comprare ugualmente, magari fra 15 giorni. Stella, ha sentito? Sì, nel frattempo dobbiamo vivere anche in questi 15 giorni. Io non sono contraria alla liberalizzazione dei saldi, inventiamoci, perché se uno ha un pezzo vecchietto magari o un pezzo che ne è rimasto uno solo, lo mette in saldo. Poi tanto, siccome ci sono i furbetti, adesso è pieno in giro di vendite promozionali, no? Per cui anzi noi, che non ha fatto la richiesta in tempo, perché bisogna chiederla 15 giorni prima, ok, chi non l'ha fatta in tempo, logicamente io non l'ho fatta in tempo e quindi non la posso fare, però è pieno in giro, quindi non sono contraria, Però le vendite proprio di fine stagione sono d'accordo con quello che ha detto Polidori, sono fine stagione, lavoriamo un mese l'anno, si lavora novembre-dicembre. Grazie Stella. Polidori, ha sentito, ci arriva anche un altro messaggio, probabilmente da un commerciante, che dice: ma non si rischia con i saldi anticipati di bloccare totalmente le vendite nei mesi precedenti e successivi? Sì, ma è una preoccupazione. Un chiarimento al rappresentante dei consumatori che mi ha preceduto, ma evidentemente non conosce la normativa, la legge Bersani e la legge regionale, perché si possono fare le vendite promozionali praticamente tutto l'anno, salvo il periodo che precede i saldi, e poi si possono fare, e lo ha previsto il legislatore proprio a tutela del consumatore, nel caso in cui un'azienda per esempio faccia rinnovo locali o decida di chiudere, può fare una vendita di liquidazione in cui vende magari tutte le merci perché ha deciso di chiudere un ramo d'azienda o una filiale o una succursale. Questo il legislatore lo ha concesso con particolari condizioni, che poi sia vero che chiude e non sia una finta chiusura, che sia un restauro vero e non sia un finto restauro. Ecco, quindi le promozionali si possono fare tutto l'anno mandando una semplice raccomandata al comune, e i saldi però sono le vendite di fine stagione, come ha detto correttamente anche questa piccola commerciante che mi ha preceduto, per le quali il commerciante, essendo di fine stagione, è già comprato i campionari della stagione successiva, dell'inverno 2009-2010, perché le sale di campionari girano con un anno d'anticipo, non si vuole portare i colori verde se alla prossima stagione andrà al marrone. Questo è il concetto. Polidori, le posso chiedere, visto che ho letto dei dati abbastanza allarmanti sulla difficoltà di prendere soldi a prestito da parte di commercianti per acquistare nuove collezioni, è così? Voi registrate questa difficoltà da parte dei commercianti? Ma guardi, e qui entriamo in una situazione di carattere personale. Chi ha una posizione solida certamente si accorge che le banche lo coccolano, chi invece ha in una situazione un po' incerta o di difficoltà, le banche sono note per ordinarti anche il rientro ad horas, quindi anche attraverso la Confcommercio. Ma io vengo stamattina dall'assemblea della Confindustria, era presente proprio il Presidente Berlusconi, e ha fatto un monito alle banche a non fare birichine, perché loro, il governo ha garantito, le banche le sta sostenendo, e quindi voglio dire, evidentemente se ne ha parlato Berlusconi 10 minuti fa, e io sono ancora qui a Cinecittà, dove appunto è finita l'assemblea da poco, allora si vede che le banche fanno il gioco di sempre, oserei dire. Ma c'è una difficoltà di accesso al credito da parte anche dei commercianti? Beh, qualcuno è in difficoltà, è la nostra paura che si affermi l'usura, perché poi magari qualcuno, guarda caso, di fronte ad un rifiuto di una banca o ad un invito a ridurre, a rientrare, poi riceve il bollettino di qualche finanziaria che guarda caso in coincidenza ti offre delle situazioni appunto come società finanziaria, ecco, e quindi con dei tassi chissà come saranno, con delle garanzie chissà come saranno, tant'è vero che il commissario all'usura sta parlando di un'estensione del fenomeno usurario che, come sappiamo, significa anche racket, significa malavita, significa tante cose, insomma. Noi grazie, siamo Polidori, veramente preoccupati. Bentornati a Salvadanaio, oggi parliamo di saldi anticipati, di vendite promozionali, di difficoltà o meno degli italiani ad acquistare e di difficoltà o meno dei commercianti a vendere nonostante l'arrivo del Natale. Abbiamo in linea alcuni ascoltatori come Adriano da Milano, grazie per essere stato in attesa. Adriano, buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo intervenire in merito alla questione dei saldi anticipati. Io sono un commerciante della provincia di Milano. Partiamo dal presupposto che a gennaio chiuderò l'attività perché comunque non riesco più a sopportare le spese, insomma. Devo fare una precisazione, bisogna distinguere le grandi distribuzioni dai piccoli commercianti, perché un piccolo commerciante che svende prima della fine stagione secondo me non riesce neanche a ricoprirsi il prezzo del campo che sta svendendo, e quindi di conseguenza verrebbe ancora ad essere penalizzato ancora di più. Questo sicuramente può vantaggiare la grande distribuzione o i grandi franchising, avendo magari tanti negozi o comunque avanzi di magazzino, loro potrebbero svendere anche tutto l'anno. Adriano, lei che cosa vende? Abbigliamento. E registra una difficoltà nel settore? Sì, devo chiudere. E quindi ma una difficoltà diffusa, non soltanto, voglio dire, certo, nel suo caso? Sì. Il problema dei saldi anticipati praticamente secondo me è una stupidata, perché il discorso di far girare l'economia non sta tanto a saldare la merce, ma sta quanto a aumentare il potere d'acquisto a chi lavora, all'operaio, aumentare lo stipendio, perché allora saldiamo tutto, saldiamo gli appartamenti, saldiamo le macchine. Adriano, da quanti anni aveva questo negozio? Sono 7 anni. Grazie, grazie della sua esperienza, di averci raccontato la sua esperienza. Antonio Longo, del Movimento Difesa del Cittadino, ha sentito? Ma guardi, la cosa che sorprende è questa, come dire, difesa a tutto campo che le organizzazioni dei commercianti, gli stessi commercianti, fanno di questa serie di paletti che ci sono, distinguendo saldi, vendite promozionali, liquidazioni e quant'altro. Allora, non si capisce, e non mi ha risposto nessuno, perché i rivenditori di auto, anche sui nuovi modelli, fanno degli sconti, ognuno come decide la sua politica commerciale. Lo stesso per tutti gli altri tipi di vendite, soltanto per l'abbigliamento e il calzaturiero c'è questa normativa ancora corporativa piena di paletti che vincola gli stessi commercianti, i quali hanno tutto il diritto di fare le politiche commerciali che vogliono. Quindi non capiamo, la chiusura poi dei piccoli esercizi è dovuta a ben altre questioni, è dovuta al fatto della cattiva organizzazione, al costo del denaro, alla prevalenza dei grandi esercizi commerciali, delle catene commerciali, ma questa è tutta un'altra questione. Polidori, perché chiede Longo nel settore Longo, abbigliamento non ci possono essere questi sconti? Ha difficoltà di comprendere l'italiano, perché io gli ho detto chiaramente che adesso non Italia, esageriamo. Federmoda Italia, allora lo ribadisco chiaramente, Federmoda Italia ha deciso a maggioranza che se nasce una legge, non siamo noi, non siamo parlamentari, bisogna che qualcuno faccia la proposta di legge, di proporre una legge che liberalizza i saldi, noi saremo favorevoli. Siete d'accordo, quindi va bene. Tenga presente una cosa, che nel momento in cui scompariranno i negozi di vicinato, cosiddetta conduzione familiare, che esistono da 30-40 anni, si tramandano di padre in figlio, e ci sarà il predominio delle grandi distribuzioni, delle fabbriche che stanno aprendo i loro negozi su strada, eliminando, quindi avremo, il consumatore non guadagnerà perché avrà un'offerta praticamente imposta dalla fabbrica, e anche tutta questa merce di contraffazione cinese, tutta sta roba che viene con i marchi contraffatti. Ogni giorno, pure ieri, la Guardia di Finanza ha sequestrato 4 milioni di pezzi, qui stiamo parlando di un fenomeno macroscopico. Stiano attenti le associazioni di consumatori, perché poi devono prendere atto che il latte in polvere è fatto con la melamina che viene importato dalla Cina, perché se fanno una lotta esclusivamente sul prodotto e non fanno una lotta sulla qualità, sul rapporto prezzo-qualità, loro stanno trascinando un consumatore in modo veramente improvvido verso una scadente qualità e verso una carente professionalità, perché sono stati eliminati l'iscrizione a REC, gli esami REC che selezionavano e coloro che volevano fare gli imprenditori. Noi stiamo lottando per l'aumento della professionalità e in realtà loro stanno muovendosi su un settore molto pericoloso. Siamo quasi in chiusura, quindi vorrei dare ancora voce agli ascoltatori. Beppe da Bergamo, vi prego tutti di essere abbastanza concisi. Buongiorno Beppe. Buongiorno. Innanzitutto, all'ultimo intervento che ha fatto il signore, devo dire che è giusto, perché non c'è più un controllo su niente, non c'è proprio più un controllo su nessun campo, non hanno prezzi, ognuno fa i prezzi che vuole, siamo molto più alti. Un'altra cosa, è possibile che tutti si lamentano, ma lo stesso prodotto in Lombardia costa di più che nelle altre regioni italiane? Beppe, è un commerciante lei? No, io sono un cliente. Sono un cliente dei commercianti, che però noto che non c'è più controllo di niente, ognuno fa il prezzo che vuole e in Lombardia siamo molto più cari che tutto. È un'altra cosa, un controllo sulle promozioni che fanno non esiste. Grazie Beppe. Paolo da Torino, buongiorno. Buongiorno, io chiamavo per fare un discorso un attimo più generale, rapidissimo. Qui non è tanto un problema secondo me di saldi, siccome poi è la grande distribuzione che oramai sta segnando il passo, nessuno sta tenendo conto che quando la grande distribuzione abbassa i prezzi fa gli sconti. Io parlo perché sono nel giro, non vendo alla grande distribuzione, ma vendo aziende che vendono alla grande distribuzione, produco beni che vengono utilizzati. Le aziende mi dicono, parlo di grossissimi gruppi, che il problema è un altro, che la grande distribuzione fa gli sconti per prendere loro un abbassamento del prezzo e questo comporta un minore numero di investimenti. Quindi quando calano così tanto i prezzi, si cerca di far calare i prezzi, io sarei molto più preoccupato. Qui non è un problema di fare saldi alti o bassi, il problema è che la deflazione è un pericolo immane per l'economia, perché deflazione vuol dire che le aziende che producono oggi incassano meno, investiranno meno e non si pagherà solo la roba col 10% di più, non si potrà avere i soldi per comprarla la roba se la gente non può lavorare. Grazie Paolo. È un tema in effetti quello della deflazione che sta preoccupando molto. Un rapido giro di tavolo, Antonio Longo dei consumatori. Lasciando da parte le polemiche, io voglio dire solo una cosa, che in un momento così difficile per tutti, credo che i commercianti debbano fare la loro parte. La loro parte in questo momento vuol dire rinunciare a una parte dei loro guadagni, una percentuale dei loro guadagni. Credo che darebbero un contributo importante a superare questo momento di difficoltà. Polidori, lasciando da parte le polemiche. No, non faccio polemiche, stiamo constatando la realtà. Stiamo parlando di Milano, un commerciante di Milano le ha detto che adesso a gennaio chiude, evidentemente stiamo parlando della prima città commerciale in Italia che affronta questa realtà. E dico a Longo che i commercianti sono prontissimi ogni giorno alla cassa, praticamente il cliente, rendendosi conto che è un momento difficile, chiede uno sconto e quello gli viene praticato, perché il commerciante, lo dico a quel signore che dice ma i controlli chi li fa, ma guardi che noi viviamo un'economia di mercato, mica siamo in Russia al tempo dell'URSS, cioè il commerciante la merce l'ha comprata, l'ha pagata e paga tutto, quindi quali controlli, di quali controlli parla? Non esistono i controlli. Sì. In un'economia di mercato l'imprenditore cerca di accontentare la sua clientela, di comprare la merce migliore e cercare di avere un giusto profitto, perché altrimenti i suoi clienti cambiano strada. Insomma, guardi che il libero mercato è una situazione ideale per il consumatore, perché in Italia c'è una distribuzione talmente vasta che ci sono negozi di ogni tipologia e quindi il consumatore faccia bene le sue scelte, ma il consumatore è consapevole, sa fare, sa guardare, conosce i prodotti. Polidori, mi consenta, nel libero mercato però i paletti sulle date dei saldi come li vede? Come li introduce nel libero mercato? domandata quella signora che diceva prima, dice perché cominciano il 3 di gennaio. Lo ha deciso la Regione Lazio e la Regione Lombardia. Va bene, grazie. Gennaio. Mi ha scusi, capito? Ma noi siamo proprio in chiusura. Grazie ai nostri ospiti che sono stati con noi, a voi ascoltatori, in redazione Gaia Romani e Valeria Coffaro, in regia Giorgio Matè, e oggi ringrazio anche le nostre centraliniste. Per Salvadanaio oggi è tutto, torniamo domani.